No. Perché è un sottofondo che va annunciato, eh? Vuoi che... Ah, va annunciato. È un sottofondo d'autore. No, più che altro ho paura, adesso devo capire il volume. Aspetta, mi tolgo le cuffie per prudenza. Sei arrivata a 4 minuti. È stato bello. È stato bello. CD1 è alto? CD1 è alto, ma da che sì? Sì. Sì. Si sente qualcosa? No, sta arrivando. Cioè parte da zero. Ah, eccolo, eccolo, eccolo un po' di beat. Perché inauguriamo da stasera un tappeto sonoro coxico d'autore. Che ci viene niente po' di meno che da. Mamma questa risata. È la risata di chi cerca di leggere il nome, ma i caratteri sono troppo piccoli. La presbiopia è. Homo Homini Loops. Homo Homini Loops. Sentite che bel grave grunge. Com'è che si groove, dice? Groove, credo, però. Voltolina, la ringrazio. E a questo punto svegliamo gli ospiti. Che ne abbiamo? Una che l'abbiamo già sentita, vabbè, finalmente tornata, poi quando siamo in anche zona un Befana. Due palle, cioè ormai la Voltolina. Due palle di Natale. Sì! sì, ormai. È quasi l'Epifania. Appunto. Io sono quella che arriva alla Befana. Sono esatto, la Befana io, Rappresentativissima. Salve. Ciao. È così. Piacere. Ciao Stefano. Infatti il primo intervento di Laura fu da inviata al brucio della Veccia di della Padova. Vecchia, sì, sì. Ah. Poi abbiamo. Hai seguito quella puntata con attenzione, Stefano. Vedi che. Poi abbiamo invece Roberto Lai. Di 20 anni fa, no? No, due. Sì, due. Forse tre. No, due. Proprio massimo tre. No, anche perché a che anno di Coxo siamo arrivati, Fedra? Cinque. Cinque, il quinto anno di Coxo. Sì, quindi tu sei una bella istituzione, Voltolina, per la Befana. Detta così è quasi un complimento. Ma lo è indubbiamente. E poi invece abbiamo alla destra della madre. Al massimo della madre, scusa. Guardami qua. È la destra, aspetta che provo. Sì, Roberto Lai. Ciao. Ecco, sì, ottimo sorriso. Avviciniamoci un pochino. Aveva detto che non voleva parlare lui. Ciao Bologna. Mamma sì. Mia, con un esordio così. E sì, infatti spostiamo il microfono verso la sinistra della madre. No, vabbè, introduciamo un attimo Roberto Lai, in quanto curatore e promotore d'arte. Sì. Sì. Dici di più perché no, d'arte... No, al momento no, al momento. Caspita, no. Ma mi lasci? Alla sinistra della madre abbiamo l'ospite silente. No, l'ospite silente. Che si riconferma silente anche questa volta. E alla sinistra della madre abbiamo Stefano W. Pasquini. Yeah. Il posto di Lucifero, quello. Che sto tentando di mettere il secondo pezzo di questa parte. Ah, perché non si riesce a fare un po' di loop? No, è difficile. È difficile la faccenda. Comunque... Questo è anche il 248esimo Coxo, che è interamente dedicato a un ascoltatore che è una colonna portante di Coxo Spaziale sin dagli inizi, ovvero il Fuga per Art, al momento Orchestra Moroni. E Orchestra? Orchestra Moroni si chiama. Ha cambiato nome? Sì. Come si chiamava prima? Oscar. Ah no, avevo letto orchestra, ma un po' di dislessia. Allora, Oscar Moroni. Così, Oscar detto Moroni. Anche Giffo. Ciao Giffo. Giffo è per gli amici più intimi. Sì. Comunque questa puntata è interamente dedicata a lui, poiché tutti gli ospiti parleranno insieme a me, che sono fresca di ritorno casalingo, di cose che accadranno proprio sotto l'uscio di casa del nostro ascoltatore veneto. Si perché può sapere già che è Veneto di dove? Perché essendo zona mia, se deve succedere sul suo uscio mi piacerebbe assistere. Eh no, ma appunto per quello si creano le connessioni coxiche. Allora, io adesso faccio un po' di confusione con i paesi, okay. Però c'ho una vaga. Tu ti ricordi di dov'è? Vicenza. Stefano? Vicenza. No, di Vicenza è il mio moroso. Siamo messi bene. Ah, è lui il tuo moroso? No, non è lui. Però lui sono anni che dice a noi veneti di ritornare in patria, di ritrovare le radici. Stiamo cercando di spostarci a sud del Po, lui ci richiama a nord del Po. È interessante questa cosa, che però gli parliamo delle sue terre attraverso questa parentesi bolognese. Poi è super dedicato, una puntata cucita attorno a lui. Perché molto carino. Effettivamente Roberto sta cominciando a lavorare alla progettazione di un ciclo di esposizioni che avranno luogo a in Veneto. Mm-hmm. In un posto del Veneto molto bello. Veneto è molti posti molto belli. Sì, che è triangolato tra? Tra Bassano, Asolo e Castelfranco. Ecco, Bassano, Asolo e Padova, Castelfranco. C'è Cittadella. In centro. C'è San Zenone degli Ezzelini. San Zenone degli Ezzelini, sentite che nome. San Zeno degli Ezzelini. Zenone. Questo Zenone. Zenone è più grosso di Zeno. Più grosso. Perché fa, beh, roba grossa. Sì, sì. E la cosa interessante è che Roberto è qui per procacciare artisti che agiscono nel bolognese da portare lì. A nord del Polipo, porti? A nord del Polipo. Ma sicuro? Sì. E invece. Ma loro ci vengono volontariamente. Sì. Polipo. Ma è un abile negoziatore il presidente Roberto Lai. Un bel po', eh? Sì, sì, sì, sì, sì. Un abile negoziatore. Un bel po'. Cosa parla questo coppio? parla di cose che accadono attorno a Oscar Moroni. E Oscar Moroni ci dice di dov'è di preciso. What does this coxo talk about? È interessante questo. Non mi risponde. Dove sarà, cioè, a sciare? Mi stai dicendo che la star della puntata si sta facendo i fatti suoi, giusto? No, ma no, ha scritto una cosa che lei ha scritto: chi sono questi tre, questi tre ospiti? Offesa ospiti. Coxoloni? Non lo so. No. Va bene, allora, bene. D'altro canto, sì. Laura Voltolina, sì. Che si è presentata sotto tanti profili, è una voce. Esperta di Befane. Esperta di labirinti. E in più anche una carissima amica. Questa della qui sì. Presente co-conduttrice di Stefano W. Pasquini, ovvero la Fedra Siboscaro, che a questo punto hai riapportato il sì nel tuo di tanto in tanto mi piace. Okay. Nei momenti epici. Ma sto sì, poi me lo spieghi Stefano, perché lei non me lo spiega. Quindi noi adesso qui non abbiamo più nessuna musica sulla nostra cartellina. C'è ancora cartellina coxo spaziale qui da noi. Vai a cercare, non lo so, sembrerebbe di no. Forse nelle sigle c'è la sigla. Volevo mettere una musichina, giusto per. No, effettivamente c'è un suo perché mettere una musichina. Allora, intrattieni un vinile. Intrattieni un attimo gli ospiti, che io mi allungo a cercare una chiavetta. E quello che non parla, di che cosa parla? Allora, ti dico solo che l'ultima volta ha estratto i Ching. Ah. Ci ha fatto l'estrazione dei Ching, ci ha fatto l'oracolo muto a gesti. Ma fa cose, che tipo di monete tieni? Guarda, facci le carte. No, quelle si chiamano minchiate. No. Cioè, sono le minchiate, hanno 96 carte. No, vabbè, no. Ma posso giocarti a briscola con queste? Che roba è? Sono le minchiate invisibile. Fiorentine. Cioè, guarda che roba! Le minchiate fiorentine, un mazzo che radica nel Medioevo, è corrispettivo del tarocchino bolognese. Guarda, io so sopravvivere con gli arcani maggiori e solo marsigliesi. Già questo, che bello! Ma però. Infatti, passali all'ospite silente, così poi ci fa una sua. Ma posso darne due anche Roberto, giusto? Perché così. No? Sì, sembra sì, carino, sì. Sembra brutto. Stefano, vuoi delle. Sì, da guarda, smazzare un po'. Ecco, delle minchiate. Un due di picche. L'hai trovato? Sì. Ah no, aspetta, ho trovato un asso di cavallo. Di cavallo, un asso di cavallo. Ecco, bene, la mia chiavetta non la apre. Ah, ottimo. Secondo me è un leone quello. Un asso di leone. Non so. Vince tutto? Provo a mettere musica da YouTube. Vuoi che la metto? No, che sei fuori, la metto io. Mettila tu. Che musica vuoi? Alla briscola come si fa? Perché non so. Ah, no, la metto io. Aspetta. Appunto, visto che. Allora, dunque. Ho pescato gli unici due veneti che non sanno giocare a carte. Stiamo imparando, stiamo cercando di capire se riusciamo a giocare a briscola. 3-7? Non siamo capaci nessuno, cioè non. Va bene, però allora appena l'ospite silente mi ha estratto una regina di spade. Questo interessante. Corso. Bello. Allora, so, audio, sì. Music, fammi un po' vedere. Cosa vogliamo ascoltare? Andiamo a vedere. Non lo so. Mettiamo un pezzo a caso. Tipo questo. Ma però tu mi hai abbassato. Se tu mi abbassi la musica di sottofondo. Yeah. Io vorrei tanto, l'ho sempre voluto fare una diretta Facebook da una puntata del Cox. Sono io che ho perso di più. Perché ciò che si vede qui è veramente, da questa finestra, è veramente impagabile. No, l'unica cosa che è altissima è la voce di Fedra. È perché sono vicino al microfono? Ma lontano? Che faccio? Ma lontano? No, ma basso. No, non ti allontanare. Ma basso, ma basso. Non ti allontanare, è brutto se ti allontani. Vedi un YouTube, insomma. Vedo su YouTube. Ha acceso il computer. Chi è che ha acceso? L'ospite silente. Grande. Beh, ci vorrebbe l'abbiamo un jingle fatto studiare negli anni. Grande. Ci vorrebbe un jingle con l'applauso. Beh, possiamo anche... Senti, l'applauso reale, l'applauso reale. Possiamo mettere le minchiate fiorentine che sembra una paradoccia. Coxate. Minchiate, si chiama proprio minchiate. Si chiama proprio, c'è scritto sulla è venuto un attimo di riflesso. Adesso facciamo la foto alla scatola. Quindi non abbiamo. Vabbè, scusami Stefano, avevo abbassato da prima. E noi continuiamo ad ascoltare il sottofondo di Vaso. Un pochino. Un pochino. Il sottofondo di Homo Mini Loops, che quando imparerò a dirlo ormai. Ormai ti avevamo già mandato a Fancoxo. No, ma non è male, No. Non è male. Invece, tornando a noi, io, a favore di Oscar Moroni, vorrei sviluppare un dialogo con voi su un tema che so essergli estremamente caro. E vorrei anche contestualizzarlo un attimo prima. Il tema qual è, caro Roberto? Vediamo se indovino. Apro una carta, giro una carta e vediamo che tema viene fuori. Il tema che viene fuori, ho girato la prima carta a caso ed è venuto fuori chi è l'artista. Chi è l'artista? Contestualizziamo, chi è l'artista in che senso? Come potremmo intraprendere il percorso di senso in questa frase? Quanta partecipazione. Stiamo pendendo dalle sue labbra, cioè le carte. Chi è l'artista? Io. Perché sei tu un artista? Perché lo faccio da 22 anni. E come si fa a fare l'artista? Si fanno delle cose e poi si mostrano. Ah, si fanno delle cose e poi si mostrano. Tipo fare un paio di scarpe? Sì, anche. Tipo quando a 4 anni facevo la popò e chiamavo la nonna per mostrargliela? Tradizionalmente è pittura e uno deve sapere, per essere un artista deve saper dipingere il cono, il cilindro e la sfera, così diceva Cézanne. Ho capito, ma quella è pittura, ma ce ne sono tante di declinazioni dell'arte. Appunto. Quindi quella è la pittura. La scarpa. Poi cos'altro c'è? Funzione specifica della scarpa? Proteggere i piedi dalle asperità del terreno. Ma non solo. Funzione aspecifica della scarpa, contenitore per fiori. Così mi ha insegnato il mio professore di educazione tecnica. E sono già era abbastanza un artista anche lui. E sono già altri indizi. Esatto. Poi, quindi tu sei quell'artista lì, Stefano. Quello che sta a fare la sfera. La sfera col fiore, scarpa. Sì. Poi che altri tipi di artisti potrebbero esserci? Qualcuno ha mai sentito nominare il tipo di artista demiurgo? Demiurgo? Tipo un... Laura fa un sorriso e ritorna alle minchiate. Tipo un pranoterapeuta? L'artista demiurgo è tipico... Del Veneto? No, dell'arte, no. Dell'arte moderna. Dell'arte moderna? No? Tipo? È l'arte moderna che nasce... Dopo Van Gogh? Sì, poi, ma anche dopo. Poi cresce e poi muore. Quando muore l'arte moderna, fra l'altro? Quando è che l'arte moderna diventa contemporanea? Ma in realtà. Mai. Verso l'Epifania. Che è questo ciclo dei ritorni. No, troviamo sto demiurgo, che cosa mi significa? Il demiurgo è l'artista creatore, quello che dal nulla, dalla tabula rasa, crea un mondo. Lui è l'unico artefice. Come tutti gli altri, insomma, cioè sono tutti demiurghi. Praticamente sì, però nell'arte moderna si crea anche la questione di asetticità dell'arte in qualche modo, come se l'arte si sviluppasse all'interno di un luogo zero. dove non parla questo cozzo? Di cose che interessano ad Oscar Moroni. Aspetta che andiamo. Ma è intervenuto sì. Oscar Moroni, che gli stiamo facendo il pippone sì. per lui, poi. Ah no, è vero, no? Voleva cioè... una foto della Voltolina. Emo. No, no, no, con adesso, calma. Ti sta chiedendo l'amicizia. Sul blog domani. Sul blog domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Comunque, ritorniamo alla domanda archetica. Archetipa, quella è la mia deviazione. La domanda archetipa di Oscar Moroni è: chi è l'artista? Abbiamo cominciato un po' a contestualizzarlo, ma in che senso? Perché ci si domanda chi è? C'è qualcuno che freme dietro un cancro? No, un cancro zodiacale, no, della minchiata. Una minchiata. Gli ho tirato fuori il suo segno zodiacale perché era infatti contento, vedi? Sì. Esprimiamoci. Ripeti la domanda. Chi è l'artista? L'artista è colui che viene nel nome del Signore. Penso questo. Questo ritorno alla fede monoteistica. Sì. Adesso sì. No, l'artista nel contemporaneo è diverso dall'artista demiurgo del moderno? Già sul confine moderno-contemporaneo no, non abbiamo infatti ancora chiarito. Esatto, adesso... bisogna prima chiarire. Scusami se cosa intendi per moderno. Cose... Cioè, fin chiediamolo ad Oscar. Arriviamo al moderno fino alla seconda guerra mondiale. Smetta di chiedere l'amicizia a me, ma ci dia una risposta. Esatto. E lui risponde, Gragnoca sì. Sì. E lui, quindi questa trasmissione gli interesserà. Esatto. Per cui, no, in realtà secondo me non c'è nessuna differenza. Cioè si parte dal 1400 e, no, e da quel momento la figura dell'artista è uguale fino ad oggi. Ma l'artista... Anzi, forse negli ultimi 20 anni sta cambiando. Nel Aspetta, senso Stefano. Che non gliene frega più niente a nessuno dell'artista. Ma l'artista del 400 si percepiva artista? Sì. In che termini? Nel termine, perché aveva deciso che la sua figura era importante, per cui si firma. Il primo che si firma è a Modena, come si chiama? Billy Gelmo. Billy Gelmo è il primo artista conosciuto che si firma. Ma del 400? No, del Medioevo, Billy Gelmo, siamo molto prima. No, nel 400 allora. Si forma la figura dell'artista dopo Masaccio, anzi dopo Masaccio, perché Masaccio muore presto, però dopo, cioè, gli artisti dopo Masaccio diciamo che sono artisti contemporanei. Se proprio vogliamo essere un po' seri. Però e la sta questione cosa di Miurgo e la, e la questione del della bottega e dell'artigianato. Appunto, la bottega e l'artigianato rimangono così come c'erano prima, con la differenza che tutto quello che usciva dalla bottega di Raffaello era di Raffaello, cioè tutti gli altri non contavano più niente. Per cui diventava dopodiché l'artista bravo doveva scappare, cioè uscire dalla bottega, tipo il Verrocchio, no, chi è? No, chi era? Leonardo, dov'è che va a studiare? Non mi ricordo più. Io solo grande ammirazione, ma esatto, Leonardo da Vinci studia, sembra che il David del Verrocchio sia in realtà Leonardo da giovane. Sì. È vero, esatto. L'ho sentito anch'io questa per cui palla. Lui studia dal Verrocchio e poi se ne va. Però se alla fine se alla fine chi usciva dalla bottega la domanda è cos'è adesso... sta storia che Fedra al Moroso chiede Oscar Moroni e ce l'ho Veneto, renditi conto. Sono tornata alle origini come mi avevi consigliato tu. Ma Veneto Oscar. Di che area esattamente? Vicenza, questa grande sconosciuta. E com'è che lo scopri? No, io Vicenza ce l'ho oggi, ma per me è una grande sconosciuta, la sto scoprendo adesso. È molto bellina Vicenza, ma apriamo i regali. No, prima voglio finire questo collegamento per permettetemi. Cosa perché adesso sto pippone. I regali di compleanno reciproci. No. Allora, la bottega di Raffaello a Vicenza. La bottega di Raffaello, ok. Se, a Vicenza, no. Se sì. Le opere erano realizzate dalla bottega e firmate da Raffaello e fra l'altro realizzate su committenza specifica, il soggetto era Renzo Piano adesso, il soggetto era concordato in maniera anche molto precisa e cioè dal punto di colore, dal tipo di forma e quant'altro. L'artista chi è? È Raffaello. Perché? Perché sì, perché è lui che che mette insieme tutte queste urgenze tra il far fare alle persone che fanno, tra la, no, lo stile è lui che del il no, manager. Ma no, si dice manager adesso. Quindi no, no, l'artista rimane, è un no, manager. Lo è sempre stato, lo era anche prima. Perché altrimenti, cioè, ce ne sono alcuni che ne so, Cosme Tura era un grande artista anche lui, però diciamo che non era così tanto manager da venire fuori tanto quanto, quindi altro, la quanto Raffaello. La managerialità è parte della, assolutamente, dell'arte. Lo è sempre stato. Fa parte della bravura. Eh sì. Saperla vendere. Che sguardo è Roberto? Lo sguardo da folle. Lui ha tirato fuori il suo segno zodiacale ed è contento. No, no, ma. No, stavo pensando alla Biennale di Cioni. Cosa ne pensi tu? L'hai vista? La Biennale di Cioni. Contestualizziamo a favore di chi come me non sa. Stiamo parlando dunque di due biennali fa. Del 2013. Ah, no, di più, cazzo, sono passati 5 anni. Esatto. La Biennale di Cioni mi era piaciuta. Ma lì chi era l'artista? Cioè, sembrava molto Cioni l'artista in quella Biennale. Notate, perché, siamo sempre a Venezia, quindi rimaniamo. Ma non, perché lui porta l'arte del Po, lui spinge verso. Perché ha creato un nuovo concetto, secondo me, di sono belle ste carte. Vuoi anche le altre? No, intanto Cioni non aveva fatto altro che continuare quello che succedeva nelle biennali prima. Diciamo che la biennale che ha veramente spezzato, secondo me, è stata quella di Bonami, che non a caso appunto è stato una sorta di maestro per Cioni. Esatto. Che aveva invitato anche Cioni, fra l'altro, al Padiglione Italia. Però in ogni caso sono gli artisti, rimangono gli artisti, e il curatore fa un mestiere leggermente diverso, che è molto creativo anch'esso, alle volte ci si confonde, però può essere un po' confuso il mestiere del curatore con quello dell'artista, ma alla fine l'artista è colui che crea. Infatti in questa Biennale lui ha tolto un sacco di artisti, ha messo figure e professioni, diciamo, che non avevano a che fare con il mondo specifico dell'arte contemporanea. Esatto. No, infatti quello che lui ha fatto, quindi facendo questo, forse lui ha in qualche modo, ma senza volerlo, non per ego, ma ha detto: caspita, aspetta che dico anch'io qualcosa. No, certo, perché no, ma il curatore sempre ce l'aveva dice da dire. No. Ci sono molti curatori che non hanno niente da dire. Certo, però i curatori tendenzialmente hanno un'idea e con gli artisti che invitano lavorano su quell'idea e diciamo cercano di raccontare l'idea tramite le opere che scelgono, perché poi, come tu ben sai, il curatore ha due possibilità: o sceglie l'opera o sceglie l'artista. Quando sceglie l'opera è tutto molto più facile, perché magari l'artista è già morto, oppure comunque l'opera è fatta e non aiuta, c'è problema. Aiuta il fatto che sia morto. Sì, diciamo che aiuta, perché magari se invece non è morto si potrebbe incazzare se usa la sua opera. È sempre una figata. Non in maniera vicina a quello che era magari il volere dell'artista. Quando sceglie l'artista invece è tutto molto più complesso, tutto molto più difficile, ma può funzionare molto meglio. Di sicuro è molto più contemporaneo quando un biennalista, un direttore di una biennale sceglie gli artisti e non le opere. No, quello che... Brava. Wow, li hai trovati. Quello che ha fatto Cioni di bello, secondo me, è stato proprio questo salto nel tempo, quello di scegliere anche opere antiche, opere di artisti magari sconosciuti e ritrovati. Quello è importante. Beh, a questo punto, allora, un altro grande cox spaziale. Stefano, cosa voglio fare? La guerra dei jingle? Io vorrei fare un brano musicale. Sì. E poi vorrei ringraziare questa puntata, perché è la prima volta in 5 anni di trasmissione che sento Stefano esprimere un suo parere personale e estremamente qualificato su un tema che gli è proprio: l'arte. No, ma infatti non ho capito cos'è stato. Cos'è un trappolone per me questa puntata? No, non voleva esserlo. Ah, però okay, mettiamo un brano, così magari facciamo un po' di... Hai ragione. E adesso la vado a cercare. Cosa vuoi? Un Paganini, no? a me piacerebbe piacerebbe un non mi ricordo Est van der Adam sì, perché ho i miei faletti, adesso non ci sono più i faletti. Non è che possa, cioè, anzi in realtà ho una playlist limitatissima. Capisci? Per quando torni l'anno nuovo e cerchi la tua cartelletta da redattore e non... Dai. Allora... Vado? Vai. I just want Ragazze, caro Oscar, tieni forte perché interviene per il tuo tema un ospite che è tanto cara al Coxo e che si chiama Chiara Pergola. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta al Coxo, al primo Coxo dell'anno. Ciao, buon anno. Io sono qui che sto curandomi una specie di pseudo-influenza. Ah, ottimo. E non un'influenza arti, sono un influencer, sono influencer. E noi in qualche modo ti abbiamo influenzato ad intervenire a favore delle ricerche di Oscar Moroni. Lo conosci anche tu, Oscar Moroni, no? Ma certo, ovviamente, è nella mia top list dei 5 artisti più famosi del Veneto, quindi... Esatto. È tipo Luca Rossi. Ma tu dove sei a influenzarti? Dunque, io sono influenzarmi sul mio divano con tanto di piumone e questa influenza è stata una cosa preziosa perché mi ha permesso praticamente di quasi completare la lettura di un libro, a dir la verità, un po' datato, che però contiene ancora delle informazioni utili che io e Stefano W abbiamo omesso di inserire nella bibliografia del nostro evento al forum. L'ho mandato con Facebook. Lo squalo da 12 milioni di dollari, però ci sono delle informazioni fondamentali su che cosa è un artista. Ottimo, pertinente, prezioso e specifico. Quindi chi è l'artista secondo lo squalo? Allora, secondo lo squalo i 25 artisti contemporanei più importanti, perché qua parla di moderno e contemporaneo, dunque non c'è neanche una donna. questo, ecco, volevo dire. Ecco, cominciamo bene proprio l'anno. Cominciamo bene, esatto. Cioè, è stato scritto nel 2008, magari adesso si potrebbe rivedere, sì, un po'. Ecco, magari una donna nel 2018. Una donna, una Marina Abramovic, ecco, per esatto, dire, no? Esatto, una. Andare così. Ma sarebbe stato, ecco, tutta intera, tutta intera o solo una coscia? Forse, ma magari un pezzettino, dai, il dito mignolo. Dito mignolo della mano sinistra, nel caso sia destra, destra, che gira anche la pagina, torna utile. Esatto. E poi ci sono anche le quotazioni di questi artisti, che cominciano qui con Jasper Johns, Andy Warhol, Gerhard Richter, Bruce Nauman, Roy Lichtenstein. Questi sono i primi cinque nel 2008. Sono. E ce li siamo già giocati. E ce li siamo già giocati. Nel millennio scorso. Esatto. Poi c'è anche da notare un'altra cosa interessante, che sono tutti, praticamente quasi tutti americani, e questo libro è stato scritto da un americano. Non so. Strano, se è una un caso? Non credo. Non lo so se era un caso, però era coincidenza. Allora, volevo fare una proposta qui in diretta alla Fedra. Dunque, visto che noi siamo donne e siamo italiane, facciamo la nostra lista, poi scriviamo un libro, no? Ma potrebbe essere il tema di uno dei prossimi Coxy. Magari, esatto, anche attorno alle giornate di Arte Fiera che si approssima, no? Dire, ma sarebbe una bella idea. Mi ha indicato un artista l'ultima volta, l'unica volta che sono stata qui di persona, e tu eri il collegamento telefonico. Carol Rama, era italiana lei? Ah, certo. Carol Rama, la certo, così. Carol Rama. Suggerimento della Voltolina. Ma quindi, secondo lo squalo, chi è l'artista è uno che si fa pagare un sacco di soldi. Esatto, qui chi è l'artista è quello che guadagna di più. Esatto, è quello che guadagna di più. E quello che guadagna di più non lo decidono gli artisti, non lo decidono i critici. Lo decide Oscar Moroni. Lo decide Oscar Moroni, esatto. Risposta che, esatta. Che da artista veneto è diventato mercante d'arte americano, a quanto pare. Esatto. Beh, comunque in Veneto ci sono alcuni collezionisti che giocano la loro parte, insomma, che si potrebbero anche coinvolgere, perché c'è del soldo in Veneto, dai, diciamo la verità. Beh, circola, sì, qualche nicchia nel nostro piccolo, anche circola in nero in Veneto. Vorrei inquadrare l'espressione, il volto di Voltolina a riguardo. No, penso che sia più una credenza di qua dal po' che abbiamo. Sì, ma sì, è un po' come noi. Beh, Veneto, poi sull'arte secondo me fa fatica. Adesso non so, Roberto. Roberto, conferma Roberto, che tu che devi curare. Traduco io se vuoi. Io da grande imprenditore veneto che sono, colleziono ogni giorno tante cose, tanto investiamo un sacco sull'arte noi ricchi, infatti gli ha abbassato anche il tono. Infatti, no, ma il tono era giusto, ci sta, perché bisogna avere un certo aplomb. Sì, si parla cose. Un filo di voce chi se può, no, poi non si risulta credibili. Quindi ecco. Bene, quindi allora il Veneto colleziona e raccoglie in nicchie gli artisti, diciamo le artiste soprattutto della lista che Fedra Boscaro e Chiara Pergola stileranno in occasione di Arte Fiera. 333-180-94-94, se volete aggiungere delle artiste scrivetele su WhatsApp, Telegram e SMS. C'è anche Telegram. Esatto. Adesso lo sapevi che, non che, lo sapevo che Radio Città Fujiko adesso ha anche Telegram? Io ce l'ho Telegram, e tu? Ah sì, no, io no, io c'ho WeChat. Oh, mai sentito? Quello è il WhatsApp dei cinesi. Cioè, questo è il momento app che ogni befana ce lo dobbiamo sì, fare. Il momento social. Tu, Chiara, Telegram? No, io Telegram non ce l'ho, però adesso che so che Radio Città Fujiko è su Telegram, naturalmente partirò con Telegram. Ottima sostenitrice, grazie. Esatto, non si può mancare. Qualche altra curiosità attraverso cui spremere ulteriormente il nostro ospite telefonico della prima puntata dell'anno? Mm. Dunque, potrei leggervi per esempio che una delle opere più costose mai andate all'asta è Green Car Crash, Burning Car One, incidente stradale verde, macchina che brucia uno, del 1974 di Andy Warhol, per esempio. Per esempio. Questo richiama temi di puntate molto precedenti, questo... Non so se ti ricorda Stefano W. Sì, no, Andy Warhol. È comunque tristissimo che alla fine vince sempre il soldo, anche nella storia, perché anche Raffaello era l'uomo più ricco d'Italia a un certo punto. Addirittura il più ricco d'Italia? Sì, così dicono. Così dicono. Lo dicevi tu che l'artista deve essere manager, se no non è artista. Sì, ho capito, allora... però non è che puoi essere solo manager. Cioè, vabbè, no, poi detto questo, Raffaello è un bravissimo. Appunto. Però alla fine... alla fine la storia è di chi ha i soldi. Ma questo è tutto un capitolo che si chiama Arte e Soldi proprio. Adesso non so, vorrei trovare al volo qualche cosa da leggere da questa, però non mi viene, così al volo non trovo una frase d'effetto, se non che a un certo punto c'è tutto un capitolo anche molto interessante sui falsi, che sono anche una frontiera interessante da praticare, perché si può guadagnare molto bene anche lì con i falsi, per esempio. Sì, è interessante. Ma tu cosa ne pensi? No, ti faccio io una proposta. Io faccio una proposta chiara. Segniamoci. Ne fai uso? Faccio uso di falsi. Segniamoci alcuni appunti da questo libro di Squali, che mi sembra che il nome sia indicatissimo, così da contrappuntare quelle che saranno poi le emersioni della nostra lista. Esatto, ci faremo degli appunti. Guarda, non l'ho sottolineato, però magari sono malattina anche domani, faccio tutta la sottolineatura. Allora speriamo che l'influencer ti duri anche fino a domani, ma che poi ti sgravi per la grande Befana che ci attende tutte. Esatto, Befana Power. Spero di sì. Befana Power forever. Comunque Befana number one nella nostra lista. La Befana, l'Epifania è il centro proprio della creatività, quindi... Dai, sì, la scoperta. La Befana la mettiamo al primo posto. Chiara, noi tutti ti ringraziamo, anche e soprattutto a nome di Oscar Moroni, che è qui nell'anima e nel cuore. È svenuto a cercare di acquistare una sua opera. Perfetto, grande. Oscar sostieni l'arte veneta. Oscar Moroni è l'artista da comprare. Oscar Moroni nella collezione Pergola, che è una collezione di brand. Quindi, naturalmente, quando poi verrà battuto all'asta, ricordatelo, perché questo alzerà sicuramente il valore. Grazie mille, buon anno e ci risentiamo entro fine mese. Carina la fanciulla. Ciao. Dice Grilli, Franco Grilli, che salutiamo. Bello il tu. Dice, Franco Grilli dice, carina la fanciulla, sotto la foto dove di me e te, per cui presumo quale parli fanciulla? Di te. Parla te. Ah, io? Cioè, fanciulla Stefano. Ma che carino questo tuo amico. Gli scrivo grazie. Grazie. Che volevo Vanessa May come musica di sottofondo, mi ha messo gli Air. No, non è sottofondo, questo è un ascolto. Scusa, allora lo sto disturbando. No, potremmo cantarci sopra. Potremmo fare dei rumori di chiavi sopra. No, o dei rumori di pacchetti che si aprono. Potresti fare dei rumori di pacchetti che si aprono. Sembra quasi un pacchetto di patatine. Esagerati. Un cotechino del consorzio Zampone Cotechino Modena. Buon compleanno, Fedra. Anche a te, Laura. Ma e anche buon Natale. Anche buon Natale. Anche dal suo. Ma io compiamo gli anni a due giorni di distanza, capirai. E poi c'è un fiocchettino rosso. Io ho. Non... Si è sentito? Abbassa un po' la musica di Homo di Homo. No, ma dentro ce n'è di casino, quindi. Ok, va bene. Vai. È il primo Cocco Rosso dell'anno. E dunque, di che cosa parla questo coxo? Di tutto ciò che Oscar Moroni non ha mai avuto il tema di chiedere espressamente. Di cosa parla questo coxo? What does this coxo talk about? Beh, la bustina me la riciclo subito per la portare le mutandine quando vado in viaggio. Brava. La bustina è già un regalo di per sé. E poi a che punto sei tu? No, io sto aspettando te, perché se facciamo casino in due. Allora, questi. No, quella. I cioccolatini, la cioccolateria più. Sono veramente cioccolatini? Sì. Grazie. Cioè, della pasticceria campione del mondo, adesso senza fare troppo. Detta, però, non lo dico. Non però lo è so, tipicamente bene. È tipicamente bene. Padovana. Ritorniamo alle origini. Una cosa Oscar, fighetta padovana. Attenzione, che se fate pubblicità dopo, Claudio li chiama e gli chiede 50 euro. Io ne ho aperto uno. Ok, apro? Sì, perché anche lì ce ne sono di più. È complicato. Allora, e il nesso di ascoltarti aprire i regali. I cioccolatini. I cioccolatini erano per Natale o per il compleanno? Ho pensato Capodanno. Che potessi scegliere tu. Ok, allora questi per Natale. Forse più natalizio, sì. Io comincio con quello piccolo. Sì, che è più regalo. Più compleanno. Compleanno? Sì. No. Aspetta. Pensato alla foto in diretta. Aspetta, perché con la cuffia è difficile, però. Vabbè, lo faremo. Fedra mi ha regalato un fermaglio. Un fermaglio giapponese. Un fermaglio giapponese di quelli che avevo quando ero piccola, quelle mollettine. Ti fotografiamo tutti. Però in realtà c'ha due perline che penzolano giù. C'ho le perline. Però non so come viene. Per adesso non si vede niente. Cioè, aspetta, guarda bene, guarda bene. I fotografi. Wow. Fantastico. Quindi vado io. Aspetta, mi volto. Ma no, è questo più natalizio. No, quello lascia fare. È un altro pacchetto? Sì, quello è il regalo, il pacchetto. Poi no! In realtà, ecco. È l'infusione, quello. No. No. No. È un'erba sciamanica, no. Si chiama salvia bianca. Lì hai tutte le istruzioni per purificare gli ambienti. Ah, perché sembra tanto è quella che usano ad Atene per farci l'infuso, che ha lo stesso io scopo. Io non so se fare l'infuso con quella cosa lì. Grazie, ma questo mi riporta. Quelle sono le istruzioni. Questo mi riporta a uno degli altri perché l'arte aiuta a vivere bene e anche certe pratiche olistiche. Io vado con il regalo di Natale. Ma leggilo dopo, te poi. Ma sei stata in Giappone? No, però ho trovato. Un gatto, finalmente! Sì, quello lì è un. È quello che porta soldi. Esatto. Speriamo! E c'è anche il tappetino. Altrimenti detti ciapapolver qua a Bologna, che vuol dire prendi polvere. È stupendo. Fotografiamolo subito. Vai. A questo punto lasciamo salire pure la musica di sottofondo di Homo di Homo Loops. No, aspetta, com'è che ti chiami, porca vacca? Io leggo Kamadamana. Kamadamana deve essere il nome del brano. Ah, ok. Che potremmo ascoltare a piena voce. Invece, secondo me invece loro si chiamano il Kamadamana. No, invece lui è Homo Hominidi Loops. Hominidi Loops. Homo Hominidi Loops. Non voleva tanto essere ricordato, cioè. Guarda Raffaello, un brand facile. Però cioè, adesso ce lo ascoltiamo e poi vi dico una cosa su Leonardo che mi è venuto in mente sotto Natale. Alza il volume, Pasqua!